come partono se è perfetto, da tutto quanto non si muove, o il padre, o il fritto, sempre tutto quanto, se mette su questi sassi d'uomo, rimane più basso come potenza a sinistra, capito? Ma non gli fanno più si chiedono automaticamente. E non dico quello che facciamo fatti, io Mario, compreso? Ho capito. Con mio non sono camminente, capito? Poi facciamo il scuperio, mi va che nulla. E sotto se usano un battito, non si usano un camavano e basta. Oh, questo dobbiamo funzionare, se non lavoriamo, se prima lo cammina più. Facciamo soffrare di gusto, tanto. No? Soffrare di gusto a fronte, adesso mi sono prendo io. Ah, aspetta, vai. Fai comunicazione, no? Per cominciare in cottura, non vado io a morire. Comunque ti lo sagliava Mario, e te beh, se sono due di vostro, se sono due finti, cosa gli hai? Due cento finti? Ma che te ne deve vedere? Mario, la nostra cosa è apparecchiata, la tira sagliai, no? E te ricordo che per circolo, vai, e te ricordo che per la tappata, due o due finti? Hai detto il mio. Eccomi qua. Tanto. Dimmi tutto. Se mi vedete Mario, la nozione sa apparecchiatura tutta l'altra. Dire assaiai. Assaiai te va a collocare, 12 20 o 12 volts. Se mi ricordare con questa gente. Mario, io faccio sensazione sua, no? Non mi sono andato in mano. Se sta passando male, dire assaiai, sono fatto tutta la cosa. Oh, io non ti ho preso questo microfono, eh. Ha parlato Mario, va a fare questa apparecchiatura, gira sei ae. Ah, infatti. No, tira sei ae, perché se da due si è vinto che sei a Mario, capito? Al padre un quadro, chi sei ae se a due si è vinti, capito? Ai ae in due, chi ha tre su quadro se a due si è vinti. Da voi, dai due, hanno la stessa alimentatore, sa la corrente, capito? Che vado, e che vado è questo video che lo sei ae? Perfetto. No, è un quadro normale, no? Questa due vinti, sì. Un quadro che l'ha fatto la mia cugina, guai. E l'ha portato pure, insomma, se sono sui portoni, se sono appena messo ogni attacco e tutto lo si attacca, ma sta si pina, capite? E per cui... Beh, portometri l'amperometro, tu metti già sai che di accadesse corrente accanto a noi, capito? Chiama di loggia, è tutto quello che mi ha passato, lui era l'altro, ma Mario gira sai a attacco, si attende tutto, e poi gira sai a volare, capito? E dai, vai, capito? Infatti, se non per sai a, non attende nulla, capito? Non va a corrente, capito? Sicché invece sai a, che litra là? Capisci prima andava a guarire a Sagliare, no, che erano bifidi, chi ci mi trova niente. Sagliare c'era quella di Busciacca, ma c'era quella di Busciacca, poi non toccare, poi non assene nuda di sciuro sul baracchino, capite, in dopo sua. Capito, ecco perché ha fatto questo quadro. Che prima magari mi lo tocca io, capito? L'ho finito, invece come, o magari come lo tocca nel manco, pure se Sagliare, capite, l'abbiccio. Però che erano bifidi su. E la guerra di capito? Io guarda, capito? Un bel impianto che per non si vai. Quando mi ha fatto un elettricista che trovava nel banco di Sardegna, come mi trovava in Lenne, capito? Da volte so collegamento, so chi mi sono in una serie, su un macchiero che beste. Questo è tutto per la mia, da parte della parte di cui ragazzi si sono, la sai tu no, ma mia ragazza. Fino a fare collegamento, fino alla parte al santo, poi ma troppo un preastro, ho capito? Ma troppo un preastro per cui devo essere attento che ma quello vuole sa mano. Però si sa come vuole, perché non devo sa moderna che male i guai. Si è fatto da qualche cosa. Ma non ho capito nulla. dimenticato mai, capito? Che si intende di quello che ti ha provato, è raro che... No, ma prima si dedica a me a cucciare, capito? E come in questo tirare a carico su ricevitore, o prima funzionava bene il suo ricevitore, qui c'è a mela, infatti su magari può essere se tramite su stasinata sa situazione secondo questa SWF, capito? Un attimo che avete un altro. Eccomi qua. Sentito Dio. Nipotina, già sta a darci il buongiorno come tutte le mattine. Grazie. capito. Senta, io però, ma è così a me dai sul ricevitore, per cui poi se queste ne vanno l'idea a coppo, l'idea su Sant'Estate, mandai a capire, l'associazione. Ma tu che in Italia, da che sono fatto che sono salito inquadrato, sono applicato sul muro. E io non ho capito, da me un anno io mi ero arrivato, un conto corrente, io sono un'associazione, cioè a riscrivere a cacchio alla radio, e mi dai la, ti devo pagare, te che mi sono dato un coso, e mi dai la 20 gasolina, mi dai la, compreso, te devo pagare, te che mi sono dato, come scrivere, e non ho mai compilato il tuo conto corrente. E invece è una cosa ona, ecco. Ma questa è un'associazione che paga, è pure assicurato, mi tolì. E poi devi sapere che l'assicurazione, beh, non paghi io stanno, ma chi mi dice, chi matto 60.000 franco già stanno, non si paga io. Infatti sei alza quel serve, fissa già un lato dedotto, capito, e l'assicurazione pure mi vedi, e non posso fare sta parecchio, capito? E per cui posso fare in sacco e sera se mi su cosa come l'associazione si dava la petrometro si dava la sierra tango alfa tango eccetera eccetera buscia là e io sono andato però io che radio club lo che andai a descrivere e mai andato a descrivere un radio club più vicino e le mi scrivono che andai a dai e io mi piace sola e te mi scrivo a Cagliari invece questa cercazione per sa Cagliari e ha poi dato un duro di gusto so, e mi hanno dato che si devo venire a iscrivere e poteva iscrivere poteva telefonare o iscrivere a questa associazione di questo gruppo a Cagliari e per cui andiamo a verso Mattissi oppure si viene a iscrivere io mi manda tutto soltanto che devi fare su voi un modulo a che impedirà isso e su vai a tutto l'altro a questa associazione sua capito? Ed è pure da voi invece, certo posso farci suinare, capito? Però forse vi do una cosa più bella, eccetera, magari anche tu magari vai più QSL, se più con più hai qualche motivo più fai dare meno con questa gente che hai, eccetera, eccetera, capito? No, poi vedi, lei che 20-30, veramente 60.000 franco, figlio mai, ho preso, lei che 20-30, 40, che manca 60. E in proporzione a suonare i voli si devono la sacquasella. E comunque bisogna, bisogna ancora, per cui se uno ci deve scrivere, basta si informare, ricrivere, e poi visto fai il solito fai da là in altro canale, capito? Per cui i nomi non mi fai da qua, è raro che fai da i nomi, capito? Raramente. Paga, si candela magari più sopra e fai da sopra, capito? Sì, è vero. Ma allora se questo lo volevo pigare. Toni, mica si va sempre come te noi, mi fa sempre a 27, Toni. Si può sempre il numero super quello là, hai capito, Asa? E che non chiesa a porre a 27, capito, Asa? Capito, Dio, bene, mela. Allora, fa la vera su, la tutto vai. Finalmente, magari 20, finalmente a 27 o 500. Tanno. Ma pure un radioamatore scritto sai voi pure, capito? Non c'è andare di persone normali, civili solo, ma pure un radioamatore, hai capito? Tanto, capito? Per cui mi fa edana, e poi tanti non si comporta bene, capito? È normale che un'uscita, capito, di controllo resiste persone stesse e di come ti dico un po', eccetera, eccetera, capito? Questa cosa da, è meno importante, ma io capito. Che è la gente che si chiede un po' sale, che non offende a nessuno, capito? Da voi piano piano è la pratica per cui cioè, fai bene che ci sono solo come te fai danisso, capito? Niente si riapire, va, parla per aula. Infatti allora, certo, è questa associazione sull'associazione internazionale, capito? Beh, no, ma facciamo arrivare a parezza casolina, compreso, se il binario internazionale, cosa del genere, compreso. Questa è una pocarizza a me che me l'ha mandato. Ehi, cazzo, c'è appena la lata, cazzo, e pure la polizia di domenica, del Caccia Unita. Però, devo, la cosa la sta comandando a te, la cosa non l'ho comandato pure, capito? Però, se uno, paese che gli manda, chi mi la manda, sai cos'è, mi la deve mandare, perché se no, mi, già in voi sei già in fragranza, e io mi deve, me, il collocamento l'ha già fatto, manda via, o altro, per no, quando non mi paese, se hai capito, e purtroppo tu cosa hai, capito? Io non ho messo la manda lei, e sotto lì la manda lei, sta tranquillo che non ho, non darci pure qualcuno pure vi sia da lei sapente che sicuramente poi non le manda lei, qualcuno mi deve essere in quel muro, sapete come è defendente tutta esaltata lei. Tu hanno un modo da pensare e fa che è tutta diversa dai lui, ecco. Ma voi c'è Radio Club e Cartagine in Spagna. Ehi, mi dà me la sensazione, Tony. Però usa già ogni nazione ad una sigla, capito? Per esempio, uno è Alfa Tango, uno si è Rattango, l'altro non so che altra sigla è Bala, capito? Questa è la 161esima divisione, Polanda, questa è Polonia. Ehi, chiamano un numero, bara, capito? Non la chiamano, c'è un numero e una sigla, capito? Ehi, chiamala. Ehi, chiamato lì. Ma non so bene, calcolo deve entrare avanti. Sta innescando. Brucia. Adesso parla che non c'è ne fischio, vai. Brucia esce Postel Radio Club Argentina. Australia. Australia, ma è qualche giornale che allora mi ha stato bene la base. Sa cos'è le sua Biden? Ma che questa? C'è la gasolina che mi ha mandato. Ah, sì. Poi come con casa poco c'è perché sul magazzino, sul rasoio, mi ha dato la valigia piena, tu lì. Ah, le cazzo me l'ha proporriato, non dato l'idea. Ebbene, ora lo sappiamo da sempre, questo è Radio Club Forest, Australia, Forest 130. Ebbene, la pomeriggio, ma già fa comune, c'è una forte mai collegamento, sì, prima epidemia, e che lui dormia su notte, che c'è? Alle 14 si bianco paghetto lì, purtroppo va, però propagazione mette prima, sono Marizio Sato che non vedo, propagazione mette prima. Se bella più caino, la paprovata va a variare, no, dai ora, addirittura vai a esistere ora. Girena, ecco, ci vede come deve girare. Cari girende, capito? Magari sa che hanno dato l'idea questa propagazione che hai di prima, capito? O prima magari un socio me a casa, oh, a dire che ha bisogno come puro, sai che la massa di fine, socio me a casa, questo pariva in tre tatta pariva. E questo potrebbe finire, Gio Mari? Tatta, ma questo per soltazzista a Torino, non tazzista socio me a. Io sono carico, sono bene un'altra gasolina che mi ha mandato, io ero al motorenne con questo suo casalato tuo, io Mario, con questo manno. Ah, con questo? Questo Galax, questo Abbaidente. Ah, e con questo siete vai a Parigi, sei? Mio papà, questo è il gruppo Missione Radio, UV, Underworld, 1994, io Mario. Sai dire già. Questo è Radio 104, Radio International, gruppo 104RA07, Corsica. 07? Prova a Roger, 104RA07, France, Contas International 1994, Corsica. E dopo la popazzo, non me la metto, ma prima te ne paghi a meno, sai, meno a meno. Sotto, sai, dai, mezzanotte più su, in su, là, là, dopo ci va tutti i giorni che si ricchi, che ha la propagazione che fa la maggior parte di sull'orte, che va più o meno guarrene, per cui poi ci va tutti i giorni che si ricchi. Ma che ha la maggior parte, tutto cane il pieno. E se c'è a bocca, se c'è a prece magari, non so, se la Germania è un sabrante, oppure se in Inghilterra è un sabrante, è così tale, con questa frenazione, capito? Dai, vabbè, gruppo Radio Italia, Alfa Tango, Francia. Gruppo, c'è a metà di... Grazie, mi riuscio pure un altro, scusa se... Concordia, gruppo Radio Italia, Alfa Tango International, Argentina. E vabbè, Argentina è Sud America, Nord America, che è, per cui... E questo fini, infatti a quelle case Argentina, capito? Questo viso operatore Emilio, Bio Box, di 19, codice postale... 3200 Concordia Entre Rios Argentina. Ma lei è una per Salasca, per esempio la Salasca da promontore mi tu. L'escalassa all'Asca, la promontore mi sa può essere, anche quasi ogni notte collega, la collega io all'Asca. Ecco, ecco. Gruppo Radio Italia Alfa Tango Francia 213-14 AT, Bio Box 47. Aspetta che c'è un break avanti. Buongiorno Giovanni Luigi, ciao anche a Tonino, buongiorno. E buone festività per il Santi. Ok, buongiorno Luigi, ha cambiato tutto al centro, ben entrato, vai Tonino. Ciao Gigi, ben entrato e saluto le belle, via. Ciao Tony, ascolta, tu che stavo cercando il numero di telefono tuo e non me lo trovo da nessuna parte, il tuo numero di telefono, ma tu il mio ce l'hai? Io il tuo ce l'ho, sei tu che l'hai perso per strada, Tu mi fai uno squillo, io me lo memorizzo normalmente, capito? Tu me lo fai squillare e io me lo memorizzo. Io, me lo attimino che te lo faccio squillare, ma tu mi amai. Vai, vai. Gio Maria, dopo una maria di tempo, come va Gio Maria? Lui, sempre il solito, tirando avanti, più bene che possibile. Ecco, un po' bene, un po' male, sempre tirando avanti, sai com'è? A nostra età non è che possiamo né rigiovanire e né migliorare tutto, peggiorare possiamo, ma migliorare è impossibile, per cui tiriamo avanti alla bella meglio, vai. Ma così ti non ci sei scelto in campagna a innaffiare le piante, non ci sei andato stamattina. C'è di bricare i piatti, c'è di un particolare. In tutte le salse gli agrumi non li ho innaffiati per niente, nulla, nulla. Però ho visto a un certo punto anche le foglie un po' male andate, capito? Un po' brutte. Oltre mi sembra che domani scendo e dura innaffiata così, tanto per avere un po' se migliora la pianta. Scusa, sto sceso e dalla pompa spesso mi ho allungato il tubo, mi ha rilacciato io la pompa con il motore tirando. Però sai, ho innaffiato, dopo due giorni sono sceso e c'erano tutti gli aranci, i mandarini, tutto, ma sai, in terra sembrava olive, tutte le parti gialle, lui. Me ne ha aperti tutti quanti, adesso quanto ce n'erano quest'anno. E beh, adesso ce n'è poco e niente perché me ne sono scesi. ti puoi immaginare dalla temperatura calda, la temperatura fredda, le ha spaccate tutte e le ha buttate in terra. Positivo. Tony, è arrivata. Non so come mai ci hai spostato su un altro nominativo, Ce l'avevo su un altro nominativo, Tony. Ma io i numeri degli amici non li cancello mai, ce li ho tutti, capito? Ma è successo qualcosa nel mio telefono tempo fa, mi ha spostato i numeri di telefono su un altro nominativo, hai capito? Non so cosa sia successo, ho schiacciato qualcosa io, hai capito? Ecco perché, un giorno chiamavo una persona e mi rispondevi tu, e poi se cercavo il nome, ho detto ma l'ho fatto e mi ha risposto lui, si è spostato sotto un altro nome, hai capito Tony? Infatti è capitato una volta che ho acceso il telefono, che a Gigino, alla chiamata di lì. E poi è stato un paio di minuti e mi è arrivata la telefonata di nuovo e ti ho risposto. È positivo. Scusa un attimo Giovanni, che gli faccio una massa a Tonino. Giovanni, scusa un attimino, riprendiamo subito. D'accordo, fai pure. Ti caldo, no? Oh, mi hai altri nomi. Oh, se no ve lo vado a diventare Ruggio. Niente. Giovanni, che ci sei? Sono qua. Voglio comandare una cosa a Tonino. Mezzo però a telefono non fai prendere indirettamente, dai. Ovvio, cazzo, ci mancherebbe altro. Certe cose è meglio grazie al telefono oppure in verticale, capito? È normale, no? Ed è giusto che sia così lui. E così via. Aspetta, io sono più tardi, sono le 11:15, sono le 11:15. Sono le 11:15. Gira. Tony, mi rese. Danno l'ora, Oh, hanno sfacciato un po' tardi oggi. Però via, sta camminando, È una giornata buona. Ora di muda oggi, Umido, è un bel umido. È positivo. Tony, rientrato, sì. A Torino sei fondente la bocca, va. Ma oggi ne fendi l'Eva, mica fendo per Eva, non so cos'è che è matta, se fende ancora, ma ne fendi veramente. Con un gioco affacciato avanti, visto che poco, ma fendi serena, non è che Eva da quelle currie e fa danno, capito? Eva serena, è più che vista che più, pa prendere al dritto un po' più. Sì, se Marco crescerebbe, gli altri hanno crescito le tagliate, le papare bastone, mi ha fatto una crescita le papare bastone proprio. Infatti, allora, ecco che te ne vendi lui, tutto la razza me ne farà di terra, tutta bestia, tutto a prorimbato, ma tutti i materiali, dalla temperatura a casa, a rufresco. Ma io so come nel mio culo non è giocato. Giovanni, io non ho aiutato l'Eva, eppure mi è tutto quanto in terra, è diventato appena arancione ed è tutto seminato la razza in terra, tutto crudo e mezzo. E qualcuno è faticato pure. Tutto in terra, ne è fatto tutto la pianta, non è rimasto qualcuno attaccato, ma è tutto in terra la razza, compreso, non è tutto in terra. Deve rientrare. Ok, quella di un bel mio, ma un bel. Non fa maturare assai. Capisci per rimasto, ma chi sa che ha maturato un piccolo metà, eccetera, capito? No, neppure me ne ha fatto, perché il preso che vendi, vedi un bel in terra, un bel. Cazzo, è una cosa incredibile, non mandarino facciamo, non mandarino no, ma l'arancio, non mandarancio me ne ha parato, un bel. Vuol dire che me ne compareggio, chi sa, lui. Che caparoggio, vabbè. Se lo compariamo io pure a vostro figlio. No, il mandarino, abbiamo già controllato il mandarino. Ho chiesto, non ho mai fatto venire a terreno con questo il mandarino. Ma l'altro ne farà, l'altro buono, l'altro uscito, una pianta giù la stata, ne ha chiesto tutte le tamarene e mamma tutte fasciate. Ne ho tagliate, quindi è rimasta una pianta di raggio, da razzo. Non è tutta una tamarata, se lei è attaccata alla pianta, ma è tutto l'altro tarato un minuto e arancione intera. Infatti, sì, a me pure si sei sussi. Ma da giù che parecchio mi uscire. E io ripeto, non ti mattia, se l'avevi continuato magari dall'inizio, magari non era successo, però è successo che era, la terra era troppo calda. Da poi, mentre la temperatura eleva, che era più fredda, era bruciata e allora le fa la testa da paese. Oh, e ha detto lì, ha manteso la razza o no? Ma pare che abbia bisogno tutto ancora, non ti sia farebbe, che sai cosa fare? Ah, sai, Rinaldo lì. Non la pigliata. Pigliata a me, mio marito, quando mi sono coso, però è tutto quanto minuto. E come sono, le era colore, anzi, non le ha due colore, però è un minuto, non è maturo come dicevo, lo vedi la prima che varia da... che vi bella un proprio, compreso, ho cambiato tutto quanto minuto. No, ma è pure un viaggio un minuto, non è maturo che sanno, Non è maturo, proprio è un minuto davvero. Chissà che non matureggia magari va, però non matureggia come ti sanno passati, che appunto ogni altro è uno spettacolo, che te invece accanto, un strano, ma era nata forse, ma come si piace cambia, a vino, avanti lui! Ehi, va bene, oh. E a questo compareggio che sta nel monastero, l'arancio, lo compareggio, che brucia, dai, intanto non è che questa strada, perché se i gallini venneggia a finire l'aranza e chi la zona dei gagliani, ma se io passo a speranza, quando si cammina a voce vendendolo, compareggi, ma pensi lì, compareggi bulcione d'aranzo, cascette d'aranzo, ma se sei lì, mi paghendo proprio pensi lì. Ma infatti, sì. Già come stati, va per dire, io va per tutto, capito? E per cui, ehi, con poche di lampi a cascetti di pite, ah. Sì, ero lungo, pure via, lo credi, ah. Cazzo, se non sei chiedi, capita, vai tu lì. Se non puoi sicuro, sarà solo che devo andare a Sicilia. È proprio, Anche che Sicilia, gatta, pare, la terra buona, Gesù Maria, gatta. Oh, io faccio un buon fermo, faccio un buon fermo, che faccio più male di un pallone. Però tutto buccia, credo che ne poco, tutto buccia, Ma già che tu li vuoi, se si può, c'è la riprovazione dell'albero, lo gatta, non so, tutte bicciate, gatta, da un peso. Ma tutto buccia, gatta. Mari, Tony, sai però come te in Chivi, molte emozioni in Cagliari, non andrà mai nella terra, La terra fianca l'aranzo, è il vero aranzo, non le basta nemmeno nessun coso, L'Italia di Lemba che brucia, ma ripeto, d'inverno è sempre l'Ebba alta, è sempre l'Ebba, non è la taglia mai l'Ebba, lì si vuole assata. E non gli basta nemmeno molto coltivatore, che cosa non gli basta? Va nell'irrigazione, con i dubbi, gli basta nei nasso, hai compreso? Lei va a coso da sopra, i fondi, piante e tutto quanto, hai compreso? No, da sotto lo truncono, da sopra verranno in asso le cose, tutto riparato con cose, o chiusure di piccadini o chiusure di canna, hai compreso? Oh, Gio Mari. Nella giustizia, dove trafficava i sensori, e infatti sono così, sono tutti recintati, tutti i cannavi di un me, ma infatti ne ha giusto parecchi, tutti così la maggior parte sono in campionato, per cui sono tutti protetti dal vento, dal freddo, capito? Ecco qua cosa che ne vuole un bene, invece noi non avremo protezione, non avremo noi. Oh, guarda, il suo canale che mi ha abbattato, io mi ha fatto un freddo, quindi siamo qui, brucia tutto e la pianta non andrà mai avanti. Oh, Gigi. Caro lì. Sai dove l'ho visto un cazzo di giorno, dove lo sento di tutti, dove avete questo di Milisi, a Cavulazzi. E a Milisi pure vedo Giallini, ma quante vedi sono esasperate se non vi la Cina, una cosa impressionante. Lei ma non la taglia, se non tocca le radici che hanno dato, invece se lei vorrebbe tenere l'umidità e la pianta, hai compreso? Gio Mari, non è la cava né l'Ebba, capito? A voi che hanno passato poco, ora hanno già tanto il giardino, Però solamente il Dio mi balzanerà la faccia, né me, e boh. Però di ferro ve la lassani e la fegge da sopra, da sopra, comprese, lei le dava la cosa, forse che là dalla pianta, no? La lava la pianta, hai compreso? La lava deve essere. E ti piglia forse proprio malattia, ogni tanto lì bastarebbe ne dava la cosa da sopra, hai compreso? Ehi, intanto sono contenti, che il mestiere, che il talismano, come te lui, che ha figliolo, come te suo figlio, io cazzo non posso vedere in baia, lui, e c'ho questi pietaglietti, non li posso vedere in baia, e poi che l'emba, è proprio da strada, e infatti la mantere come le dai. Io deciderebbe io notte, quando la tagliamo da mamma, da porre un troppo dell'albo di razzo, le basse tagliate, capito? E ha giubito la pianta era migliore, ma da pure ha giubito una cosa, non andava per il giorno, non mi piace, questi allora giù versato di 6-7 buretti. Passo il gespogliatore, la taglio, da pure un po' il basso lo molto coltivato, la gente zappata, però ragazzi so qui fatti l'erba, bisogna tassarla perché mantenere l'umidità e la pianta non soffri di chio, capito? Proprio così, guarda, fatto così, no, vedete lui dice così, infatti è un entrano con il varone da quelli di Saranzo. E dice, no, dice, vuole lasciata, l'erba vuole lasciata, vuole lasciata. È molto coltivatore, non ho passato meglio, Mari. Non ho passato che te ne vada tutta l'Aranzo, non ho passato. Assolutamente, dove c'è agrumetto non si passa nessun mezzo di nuda, non si passa molto zappa, non si passa di nuda, solo a tagliarmi la facciatrice boh. Però di altre cose non la travagliare mai la terra, mai la cosa lì si tocca fare la lì, si vini viene, e se li tocca la moto zappa, la cosa li tocca, lì si può la distanza e la pianta non rende più. E allora non basta nemmeno c'è un mezzo, solo nella taglia di chi la fa che poi un po' di a fuoco e basta. Prego. Oh me, avanti il blecco, buongiorno. Graziano, da voi da una marea di tempo, di 20 anni che non li sentio. Buongiorno, saluto la tutta la ruota. Ciao Luigi, ben sentito, chi c'è ruota? E Gian Maria e Tonino da Usini, vai per chi vuoi, vai per Gian Maria, dai. Cappa, buongiorno anche a te Gian Maria, buongiorno Tonino, cappa, riprendi Gian Maria. Qui mister Graziano, buongiorno, ben sentito, buona giornata, buona festività anche a te famiglia, e ben entrato. Ok, vai tu. Ciao Grazia, ben sentito dopo tanto, ben entrato. Vai per Luigi. Io già l'ho già salutato a Grazia. L'ho già salutato, ero da tanto e non ti sentivo comunque Grazia. Ero da Ischiavo, c'era un giorno che non ti sentivo in radio. Eia, perché la QTHH mi voglia la prima pena da bella campo. Pochissima fidaggi, ma sono uscito ieri, no, avanti ieri. Niente, non ci ho compreso nulla, no. Aspetta, non ho capito, non grazie. No, la gente, dov'eri? Era all'ospedale, ricoverato, in chirurgia, a quarto piano. E lì si mi voglia la brida, bene a capo. Ma scusi, aspetta un attimino, Allora, io avevo inteso, ma che cosa io Maria? Che le vende? Che ti puliscono per il zona e le rivendono qua a letto. Ora va, non mi voglio sbagliare, gente se c'è storia e hai domandato io tanto tempo fa, non domandato, gente se c'è fatto che le vendono lo spogliarellista, non so cosa le vende, ma non è che hai votato troppo, no? Oh, grazie, che hai votato troppo. Allora, quello stupidissimo ha proprio scombattuto tutte le ovaie. Sì, Gian Maria, non è che ha portato troppo, no? E allora, ma tutti le magie che hanno appena il suo travaglio, un uomo che appena va, hai pensione. Piglia, ragazzi, 2002 mi pare di pensione a Luigi. Cazzo, si dà da fare lo sporaglista, ragazzi, ti ha fatto, ma è l'unico del Brattamore. ci ha comprato per il somma con i brillanti d'argento e si appoggia a davanti a Daretto e detto ogni tira fenne che ci spettacoli, capito? Evidentemente ha pigliato freddo e da voi l'ha recuperato. La prima volta ha fatto sapere nulla, se non l'aveva mandata a Ciappaco, perlomeno. Io ve l'ho andato, a chi quando un spesso io per accompagnare la D4 e per cui l'aveva dato a Ciappaco. Però, fa di su travaglio, fa di, ha pigliato troppo raffreddore lui. Adesso a parte gli scherzi ti sei ripreso bene, grazie, a parte tutti gli scherzi adesso. Adesso devo andare al controllo domani, domani mattina, perché adesso per le feste, ma i tibicchi mi hanno mandato a casa, però domani devo andare al controllo, che devo fare un'altra visita e dopo di quella devo fare ancora un'altra. Grazie lo bus, oggi visto il bratterino verde, oggi cucciato il buffo, lo bianco, ma che vai di riva, torna la fradì. Boh, ma ti rimanere, allora domani dico, così come ci faccio a avvisarmi. E ti non mi il telefono, virai. Dopo io ho abbassato con prendicchia, perché ti puoi seccato e allora io ho abbassato il fuoco, ma che metti a gente a fare il chiuccia, ti ho abbassato il fuoco, ma se tu mi avessi il fuoco o tu hai resa, io, anzi, ma ti ho fatto mia zia, io ti ho acciappati e cazzo, lo sai che c'è convenzione, se non si conosce, vabbè, ma quando si conosce penso che faccia anche piacere, no lui. Bravo, noi forza nuda. Ecco, buongiorno comunque, Robe, sentite. Io non sappia niente, infatti con Mario l'abbiamo fabbricato e hai tu buono, non l'hai detto su di uno, hai detto ci mi telefono in terra, che va giù della quadra, ti vuoi che tu mai non la trappato mai, si che tu mi avrà telefonato, se no non sappia niente, veramente mi aveva fatto via dire andare a Ciappallo, ecco. Come ti è capitato anche voi ci andava a Ciappallo, non sappia niente, ecco, l'avevo guardato pure rimane in altre rimane con Mario. Vabbè, o di importante che so chiamare e sia tranquilla a Marro, capito? Qui c'è una cosa più importante. Non fate niente, ok? Un attimo, mio marito, per l'esente. Io c'ho Maria, saluta ma sono ieri. Saluta a tutti, c'ho Maria, fammi domani, fanno un controllo, lo da voi, è stato un attimo così, mio c'ho Maria, era mi buccate, senza suonare. Ha fatto pure questa visita che doveva fare esseri e quindi ha provocato tutto Gio Mario. Si è lasciato anche mezz'ora in più, il dottore mi ha detto che ha fatto orso, anche che gioca Gio Mario, ora sotto un avevo bigliato. Infatti, queste cose bisogna stare attenti, non bisogna trascurarsi, no, bisogna andare subito, Ma ah, vedete anche veramente, l'importante è che si sia ripigliato e si abbia tranquilla, va, capito il rumo. Ecco, ma è piaciuto di linea, ma chi cazzo a un certo punto non ho intendito più, era passa bene, che era in cucina a cacca, ragazzi. Vabbè, faccio il Ferrondini, chi interessa, chi si gioca a me, ecco, da voi, a intendersi a Ciappati da per tempo sempre, capito? Riprese lui. È positivo, positivo, dai. Noi vi buffonemmo, ma stiamo buffonendo, però le cose sono cose serie, chi si veramente. Sono cose veramente serie, noi ne siamo buffonendo, ma non ammazzare tempo così, anche la cosa è andata bene. Però sono cose a voi, ma la cosa sono cose. Se non è mette in tempo, rimane in tempo. Tra cureggi sono dolore veramente, sono dolore veramente. malati allora, no? Non bisogna trascurarsi, che lui sta in che dice la cosa, bisogna farsi subito, perché chi ha ragione, ma l'importante è avere sia tranquillo, infatti io lo faremo sempre, no? Di questo fatto che era medizzendi, e va così, tanto va a ammazzare un tempo, non è che è una cosa così, tanto va a incapolare qualche cosa, ecco, già lo sa, grazie a chi ha anticipato questo, e noi la finita. Tu pensi veramente che hai la carta, va. Speriamo bene, Lando, grazie. Ripiglia, dai. Ehi, già, Lando, vedi, là. Va. Tanto prima o poi, quando è, mi cazzo la fu. Cosa devi fare? Va. Ehi, già, non mi dico, va. Tu, come te la dici? Andate a mare. Ma così all'improvviso, mi però non abbiamo lunga tutta ora. Roba la macchina. Sì, allora, sì, particolare, no? Che c'è, vera misurita che non neanche da ritratti a un sacco, no? Per i raiti e a sassi di andare a un sacco. E la sera la poi trabocciamo i raiti. Oh, la realtà non sa come ti comandano. Stai facendo i raiti. E lì domani era tutta dolore, no? Che era tutta dolore, non ci luce di fratello, ma era recuperato, ma il dolore a respirare i ricci. Se mi aveva acciappato, mi sarebbe da fare la recuperata, ma tranquilla luna. E così che fammi prendere e ti sei giunta, fammi dato la moglie dei miei nipoti, si chiama la giunta la cosiddetta la luminescione. E invece da misurita, no, e chi dà? Dice, ah, dici, mi dice, ma la giova, dice, sì, ah, dice, mi dà il miato con piatti di lesciò, dice, ah, i cambiabotti, dice, mi piace. Ma chi era, non mangiava i cappelli, ma non mangiava. Ha già regato con un piatto di minestrone e siamo in 8 anni. Vabbè, tranquilla come la sa, pare che non abbia più niente. Allora se non andate, se non me la mangiano, a chi sa piaccio quella via cara di Bescio. Dobbiamo andare a comprare lo latte da Goppo e a portarmi giro. E invece a ricevere di mangiarmi delle fuori già che la mostra, allora devi tu. Era tranquilla e pacifica, capito? È come se capite delle cose, bisogna un macello e oggi, vai. Allora, manco della gente, ma se la vedi anche se mai. Comunque mi ha detto questo, vai un'ora ancora, torna in narizzo e vabbè al prossimo giro. Grazie, al prossimo giro. Ma tu, quando ti senti qualche cosa subito passi, noi sa così siete tan nuda, vai e basta. Per sicuro, che purtroppo sono cose delicate, specialmente come te sei due, e mi lasciava attento a queste cose, boh. E mi dispiace veramente. Ma l'importante è che va, sei tranquillo e pacifico. Ok, grazie, a riprendi lui. Positivo, dai. Così se voglio essere discreto, ma auto roba di mesi fa, dove è auto, grazie. Io c'ho un problema tutto particolare. A me vivo, la metà è tutto bucato, è tutto bosso lungo. Ancora non l'hanno inventato. Ah, positivo. Tonino, già non so cosa l'ha inteso, ha detto che se la sentire in Fabia niente, che facciamo un attimo di cose, ma lei ha ripetuto niente, so cosa se l'ha inteso. Già renderà subito. Mi ha dato niente per quel cacchierato. Ok, grazie. Purtroppo è così, grazie, cosa vuoi fare? La vita è così. Oggi bisogna essere attento a più, a tutto bisogna essere attento a chi un attimo. E specialmente a chi ci fa in due, sono cose delicate, per cui quando tu intendi appena per cose devi farci subito, Maria Chitani e... Cioè, Luciano, bisogna che cosa, basta telefonarmi, io sono pronto a qualsiasi cosa che lo sia, capito? No, non vi so problemi, capito? Non fa problema, la legge mi sta portando a me figliola. Ah, non mi vuole andare io, da risolvere la cocca di aria, ma la passa, e invece che ho fatto mai aveva provato il tutubo, una sondina che si la racca nel vaso, pensava la bocca di sola, un dolore mi ha crepato di più visto. Oh, e mi ha detto, ringrazia questo tubo, a salire prima di sci, come lo chiami tu il tubo, perché se non era per questo, avrei stato bello che è fatto. Ma qua ti dico che un dolore così malo non l'ha mai passato. Che hanno quei mezzi, non lo sa grazie, capito? Però i due sono tutti mali, sono tutti mali. E cura che fa in mezzo, così è lui. Sì. Allora io me ne racconto una, va, a me, chissà che, magari che prima di chissà chi sta passata. Però per andare, ho visto una lavaccia, ma è una questione di su temporale, su poco di fresco ha fatto un mazzano, ecco. E mi fa dire, quando è arrivata in sé, ma la prima è arrivata lui, ha fatto forse, ora non mi tocca a dire. E dove mi fa chiamare appena ho visto la bacidrissa, eppure non varia pure un poco lo braccio, e tu mi ero un poco preoccupato, era a Cagliari, cosa? E poi varia, mi ha detto sintomo, ho mancato queste cose da mancare, ma sarà il mio gente che mi sento. E mi ha visto dolore dito a Rubito, la bacidrissa, e che devo preoccupare, lì era soltanto veramente. E poi invece mi è passata questa cosa, ma io dico che ero preoccupato veramente. E poi andavo cosa mi è passata. Vabbè, la triste già non è una cosa molto pericolosa, lui è il fatto la sinistra che si conta, praticamente la sinistra, chi la sinistra è proprio un bicione suo, e si rivolge in questa base, bisogna essere attenti. Ma la triste è tutta un'altra cosa, non è niente di grave, la sinistra è la più cosa importante, lui. Ma sì, se ne parliamo, e poi è in coso, no? In maglietta, e coso, e ci ha fatto la temperatura, ci ho pigliato un freddo, e coso, no? E tu, ma sarà dolore che mi tocca, mi va a chiamare un po' la bacchetrizza, però, no? E tra te, ci ha pigliato un freddo, e coso, e ero un po' assustato, preoccupato, poi mi viene questo ammancamento, mi viene questa depressione, tu, ma non sarà che mi vende, che mi sta venendo anche cosa, e mi sta assustato, ecco, invece, a voi, nel passato mi sono dimenticato. Tante camminetti, specialmente in macchina, è una cosa che bisogna fermarsi subito, impostarsi direttamente, fermarsi, non si fa mai di cose come tanto, capito? Farsi più tranquillo, capito? Marco, se l'hai zitto, vedi queste cose come ti dico, tante cose, capito? Per cui già sono tutti male di dolore, No, quando mette il tuo la sinistra è la cosa più brutta che vi sia, fra i e l'uguri, e quando vede il dolore ai chili, non è una cosa facile in striscia così, la dritta no, la dritta da abbassare, ma la sinistra ma la giusti, sono cose ben delicate. Purtroppo è così, dice, sbatti in temperatura, ha fatto un travaglio. E così col pulare è abbigliato e lui va bene, riprendi, grazie, riportate due avanti sera, ripigliete, sei tranquillo, dai, grazie. Ehi, anche a sinistra, se ti vede a sinistra, e la voce è l'ugore di una bici, ti inabiti a chi ti calcareggia lo braccio, ti fa male tutto lo braccio, allora sì che è pericoloso, perché può essere anche un inizio di infarto, quando ti fa male a sinistra al cuore e ti prende il braccio, allora ti batti subito veloce e buono a respirare, anche se no è il braccio che ti abbassa, che è il cuore brutto, capito? Ti avevo visto io una volta che io volevo il amico, mi devo solo posato, questi rame è posato, era vacca, appena è entrato, è posato, allora posso la mano a pittorra, si è separato lo braccio, due è separato da terra, uno e quattro. Positivo. Oh, cos'è da attivare invece a me? Se ti andiamo a fuori mia moglie dice a me, perché io sono del vecchio coso. Porto un attimino di bianco a me cosa vuoi invece a me, non esiste anche cosa. Porto un attimino di bianco, ripigliaio mai. D'accordo io. Chi si è pericoloso sì. Purtroppo capite di ambulo queste cose. E i malati sono tutti uguali, più o meno, grazie a Euia. Veramente, guarda, non mi chiedi che tu metti a tutti, veramente, che non mai detto niente, ma che capita, sono cose che uno a voi magari quasi pure piacere, capito? Io ne ho quasi mia vita, anche per ieri l'avevo ricoverato il burro, per cui andavo, non via lì andava, capito? Per cui le mie saputo me l'ha desiderato, se sta qui non me l'avevo dubito, però evidentemente non è stato possibile a davvero mattessere. L'importante è chi sta in me, qui c'è la cosa più importante. E adesso piano piano c'è il figlio. E purtroppo oggi ho male, quante basi, e le città scioccate. Tanto ero pieno di dubbi, flebba, tre cazzi di fa, macchinetti, alla mia poco di cosa. Cazzo è rinciurato 3D, molto, non copre via nuda, proprio andato. Mi ha salvato il culo quel tubo che si assolva. Sì, no, era io a prendermi, ma come era? Mi ha detto mio figliolo che c'era lei che gli ha detto che a me non mi può operare, se mi tocca lei, buonanotte al secchio, capito? E mio figliolo mi ha detto che io non mi possono operare, capito? E se la io le apri, la coprisce. E me la ridicchio a te. Poi invece la poi piano piano, da poi la calzare, la guasciare, ti ha messo ripreso, piano piano, la comprendi parole. Meno male che fai la tua figura che ha detto queste cose, ma che se no non credo che ho perito senza la compagna dei genitori, capito? Non penso che lo voglia niente. Ma che oggi vuole essere tranquilli e di burro, però è di quella subito italiano, si è andata, certo si è andata a Isola, capito? Poi ci hanno fatto bene, e chi dubbi, purtroppo è rimbosso questa cosa, vuol dire che mi volia ringraziare, so che le cose fanno male, però bicciolare, grazie a Dio, la pace di Fabitello con noi, vuol dire che la cosa è andata bene. Quando arrivi qui al pronto soccorso e dalla ricaduta di fuori che faccio io che ci manco dal dottore sempre la cartella e vi ha detto che era in cura all'altro ospedale, capito, con quel dottore che c'ho, perché se vedono come sono le cose e chi mi si pone in mano subito autorizzazione o non autorizzazione. Poi magari quando ti riprendi, se ti riprendi c'è da operare, ti fanno fermare, anche viene l'anestesista, ti fa delle domande e ti fa sempre, ma compreso se c'è da operare. Se non c'è da operare lo sa niente. Ma io per il modo, cioè per me non si può operare, si può fare nulla, non mi chiama tutta la matta mi chiama, capito? Il suburbo è tante cose, ma speriamo bene, grazie, speriamo bene veramente. E beh, infatti noi pensando al tuba, strano, ringraziamo. Ho detto, hai impegnato bene anche il travagliuccio, hai tu che hai deciso. E io ho pensato così con Mario, capito? A chi Mario mi ha domandato, ha detto, ma stava bene anche il travagliuccio. Lucio. Questi cazzi, il suo periodo non entra, salto fatti in mezzo, se c'è travagliato, travagliato. E invece mi hai confermato, eri così, cazzo, allora, da che c'è il dono, mi dica Mario, tu faccio parlare, boh. Ma, speriamo bene, grazie. Va bene, è andata là, grazie no. E ora sei i cosinenni, oggi di volo. E io gli occhietti col suo normale, a chi? Non posso mangiare più, ma macchina arrabbiata, le dice le dito. Dopo gli ho fatto la razza. E dopo cos'è che figlia? Capra, fio di rumbido, buoni, Bettina e cavallo a tondo. Andate! Andate, grazie, ando una cosa piatti, bisogna mangiarla. Se si cose, non si può mangiare, bisogna evitarli, purtroppo è così. Lui, mi pare che lui era già che si è malasura, non è che gli faremo, noi siamo in due per cui, quella moscita di lui è pochito, è così, è quello battato, da voi, cos'altro per, mi alla parmigiana, da voi, cos'altro per, non so cos'altro per, mi pare che ci vuole queste cose, il furro, ma non so che si fa questa cosa, allora mangiamo lo mattezzi, grazie. Chi ha preso? Mi un po' che ce l'ha fatta rimane. Finirai il becci, manni, ma io non rimani a non il becci mania, ma cassaggiato, l'accio. E a casa mi ripetere, se mani a dire a me, cazzo, faccio nervoso, mi la mai denni, cazzo, la diglia. E gli dici, mi pare, me lo mangio, mi pare, me lo mangio. Poi se dici, guarda, io ho capato, me lo mangio a vino. E mi ha aiutato. Anche no, che pure la coccia, la metà, non rimane alle imbecille. Un piccolo di legge, alle giù. Per perderlo, gli ho detto, portati, ciò, se lo mangi, pure un freddo, già è buono, sei più buono. Ma non ce l'ha detto, tutto arrosolato, per carità. Quando non li può mangiare, la di cremo, purtroppo è così, e voi, e ti vuoi vedere, c'è un paese travaglio, non ci ne può mangiare, ma è tu roba piccante, ma non li puoi mangiare più, per cui deca di mangiare più bene possibile, cosa che poi digeri tranquillo, capito? E se no, aggravi la situazione, poi lo capire di tiro e alzare. Così purtroppo, ma capai che sono i tassoli, siamo tutti un po' bisessionati, oggi purtroppo bisessionati, dopo mangiare il cielo, dopo mangiare il tassolo, e tante chi dà ragione, hai il cribacca per i mattessimi, e chi dà ragione, capito, purtroppo è così. Ehi, io Mario, così, a faccio di comparare che si omogenizzate, come te di neonati, alla poia giubileare che come se morino, a cademagna di su Giovanni, quindi avrà faccio un credo in più. Infatti avrà una creatura in più, purtroppo. Bisogna fare anche quel sacrificio, purtroppo è così. Purtroppo è così, cose di voi, ma non si può fare niente. E dunque, infatti, devi ci attentare su che maglia e basta, per cui cercare di andare più bene possibile. Purtroppo è così, è un macello veramente. E chi si freddo non è tanto cosa buona, per cui bisogna essere attento a chi si mangia pure. Ma che dipende pure un bel da chi da chi si mangia, no? No, Gio Mario. Oh, non la mangia in nuda Graziano. Andate a far sapere dei paittiri, Ghisso mi ha provocato Ghisso. Ho preso che ha cacciato tutta la panca, quindi tu, chissà che te che devi fare, devi andare 3D. senza mangiare. Un poco di tè e latte giuro, la verità. Voi, dai, prima di fare che avete state stati a vita, per lei da di camomilla, ma due cose dipendenti, no, assai, però chi sa visto, quando è tornato però, dalla visita. Però, quando siamo tornati, ha detto, boh, sarà la fame. Era la mia dunga. Dopo è giunta a conto da venire, gli ho detto, pancia, e da detto, mi faccio la camomilla, come si quando gli venne sempre, Gio Mario, che si pigliava la camomilla, e li passava. E invece più andava e più aumentava. Oh, e tu dovevi essere stagione, Gio Mario. Hanno fatto un casino, hanno telefonato da Zassari. Hai su diritti. Che non te ne dico nulla, Gio Mario. Tu lo conosci, visto che ti ha detto, Graziano, basta. Ti dico solo questo. E se vuoi ci mettere salati, ti ammazzano i salienti, io dico. Gatti così facili, ma non so pure come te le faccio a mezz'ora, te l'hai visto che sono mezzo passato. Anzi, che ci metti, la di nubi, da mucca la di nubi. Tranquilla, pacita, la ammazzata alla una, e non mi ha mandato, se mi pensa, ma dai che piace farà da questi direttamente, puoi immaginare chissà cosa era il fatto. Pacchetta là tranquilla, la sale come tu pesci, boh. Cazzo, mi siete mandato una telefonata che la mucca. Bene, cosa succede? Aitti. Niente, mi ha provocato Gio Maria. Chi è? Quando riveniva il suo di banca, si pigliava la camomilla e passava chi sapeva cosa, insomma, chi è. E invece la poi, come ha fatto la visita, gli sto disgraziato. Si è fatto Gio Maria un pallone la banca. Da voi a canto se non radiscite a punire i rivolti, se però questa ne ha fatto in tempo, questi l'hanno visto, l'hanno posto chissà cosa, se l'hanno stata a sopra, è andata vega, è andata vega, è un macello, e chi dice che l'hai provocato questa cosa allora? Chissà cos'è che hanno combinato, porca miseria. Va bene, Rudo, dai. A questo quella bambina faccia oggi, puoi mangiare la mamma, già subito pronta a mangiare, a chiacciare una bambina pure. Grazie di essere entrata e gli auguri a Graziano e speriamo bene, dai. E poi devi sapere più a che cosa mannaggia la miseria. Ma fatti piacere, fatti inteso, vai. Grazie ancora e buona giornata e buona festività in famiglia. Ciao, Ru, dai, chiudo che si provi noi e chi dà ragione, ok? Ciao, Gio Maria, cosa? Me la ricendi, Graziano, siccome si, tu mi hai mangiato, se devi pensare a chi, uno che deve andare a vedere questa cosa. Appena che si vede, però, si va a cosa, passiamo, buon preso. Carlo, domani? Tranquillo, dice un paziente, ma sempre tranquilla, capito? Sì, capirà. Hai già mai detto così, dai, attendiamo. Saluta a tutti, buon pranzo a tutti. Ciao, saluto un po' da Graziano. Ciao, Gio Mario. Ok, ciao e buon pranzo, ci sentiamo, ciao.